Ma tra l'altro, allora, iniziamo subito con della magia data dal fatto che stiamo in ritardo anche nella prima puntata. Buzzi può questo, può un sacco di cose, però io direi a questo punto di partire senza indugio e fare partire la sigla. Questa è ginnastica per sale d'attesa e questa è la nuova sigla. Pezzone, questi sono i Fugazzi e questa era Waiting Room, è una canzone contenuta nelle 13 Songs, un disco che vale la pena di essere ascoltato, ma in realtà loro, cioè i Fugazzi, in una loro intervista, diciamo in una rivista di settore, dicevano che già la demo che avevano fatto nel 1989 era pensata per essere la sigla di questo programma. Pensa alle volte, proprio quanto uno ce la fa in centinaia di campi diversi e quanto uno può non farcela, tipo me, per esempio. Questo è Ginnastica per sale d'attesa, questa è la prima puntata, è tipo uno dei programmi con la più lunga gestazione, soprattutto se comparata alle bassissime aspettative di cui nutriamo. Questa è la prima puntata, è il 7 di luglio, che è un po', diciamo, noi abbiamo studiato a lungo questa cosa e abbiamo scoperto che il 7 di luglio è la data migliore per iniziare un programma radio, praticamente, e c'è scritto proprio su un sacco di manuali. Qualche malelingua può dire che non è il caso perché la gente va in vacanza, ma noi alla parola vacanza rispondiamo con una grassa risata, perché siamo dei pezzenti e non ci abbiamo né soldi né ferie, quindi avremmo voglia, ma avremmo voglia ne avremmo praticamente sempre, ma invece tutto il resto manca, quindi noi iniziamo questo 7 luglio. Qui in studio con me ci sono Cesa in questo momento, E il buon Lorenzo a fare la regia. La regia quasi, quasi muta, direi. Quasi muta. Però precisissima, precisissima. Madonna, sì, sì, no. Noi non abbiamo nessun dubbio rispetto alla, alla regia. Io dovrò continuare a cercare di non guardare Lorenzo perché vado in fissa sugli schermi televisivi come tutti i bambini nati e cresciuti, diciamo, a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Insomma, una trasmissione super fresh nonostante le cariatidi che ci sono in studio in questo momento, ma noi ce ne battiamo le balle, siamo un team giovanissimo praticamente. Cariatidi Pride, esattamente. Insomma, una trasmissione molto giovane, molto fresh. Ma io non voglio in realtà dire assolutamente nulla su come sarà. No, non è vero. Dopo vi spiego come sarà questa puntata, come saranno in realtà in generale questa trasmissione. Ma ad iniziare, diciamo, a definire per primo con una descrizione direi quasi laconica di ciò che sarà questa trasmissione, chiederò a il buon Pica di farci partire il nostro testimonial, perché in realtà quello che ci tenevamo a dire è che non solo i Fugazzi già nel lontano 89 spingevano per essere la nostra sigla, ma abbiamo addirittura un testimonial che è stato scelto fra centinaia di migliaia di provini. E quindi chiediamo a lui, diciamo, di definire in pochi istanti come sarà questa trasmissione. È piccola, però è caratteristica, è bella, è sempre bella. Ecco, questa è la verità, questa statuario, trasmissione. Ma... Bravo, statuario direi. È una trasmissione piccola ma caratteristica. E lui, tra l'altro, è un testimonial che ha vinto, diciamo, il ballottaggio finale con George Clooney. C'erano lui e George Clooney, e alla fine ha vinto lui, perché ci piace un po' investire anche lì sul giovane. Oddio, non che invece il caso di George avrebbe abbassato troppo la media anagrafica. Però... Ma comunque non vedo una mazza, quindi mi stanno indicando delle cose, ma... Entro a gamba tesa solo perché la prima. Ricordiamo che, come Bravo. Tutti i programmi di Radio ZM, è possibile comunicare con il programma. E quindi vi ricordiamo la chat di Telegram, che è radiozam_chat. E in questo momento è arrivato un messaggino. Grande. Già i primi messaggini Grande. Alla primissima puntata. Tra l'altro sto dicendo sulla fiducia, perché in realtà non vedo assolutamente niente. Perché la cosa è che io vedo, cioè mi confondo con lo schermo e non vedo una... Però contemporaneamente non vedo niente, data le mie scarse diottrie. Il nostro R2D2 molto bene, ci molto mostra... bene. Esatto, il nostro R2D2 ci mostra il messaggio in sovraimpressione. Allora, niente, stavamo parlando del testa a testa del Esatto, stavamo diretto. Parlando del confronto diretto fra George Clooney e il nostro nuovo testimonial, che però si è giudicato primo. A questo punto cerchiamo di spiegare per quale motivo questa trasmissione è piccola ma caratteristica. Allora, piccola perché tendenzialmente cercheremo di non disturbarvi troppo a lungo e cercheremo di farla durare non tanto, ma allo stesso tempo è caratteristica perché fondamentalmente ciò di cui si nutre questa trasmissione è di conoscenza superflua, un po' conoscenza inutile, diciamo, sapere inutile. Perché questa cosa è particolare secondo me, secondo noi? Io tra l'altro sto continuando ad usare un po' un singolare, un po' un plurale, un po' per trascinarvi con me nel baratro di questa ignominia, un po' perché mi sento un mago Telma, quindi parlo un po' anche, fra un po' inizierò anche in terza persona, chissà, chi può dirlo? Ma sì, noi voglio dire, siamo aperti a tutto, no? Ma noi chi? Tu e... No, noi, Chiara. Ah, no, ok, no, certo. In realtà sono qua da sola, cioè queste voci le sto facendo comunque io, sono in studio da sola, tristemente, non c'è Cesa, non c'è Lorenzo, sono io come Seth MacFarlane, praticamente doppio 17 personaggi alla volta. Sì, abbiamo delle abilità ventriloque inaspettate. Inaspettate. Allora, torniamo a noi. Allora, fondamentalmente la coscienza superflua. Cioè, coscienza superflua perché è strano in questo, diciamo, 2020, 2019, 2018, in questo a partire dal, direi da, da sempre, perché fondamentalmente noi viviamo in una società in cui ci vengono costantemente spacciate le informazioni come utili, no? E allora diciamo negli ultimi 20-30 anni, ma in realtà probabilmente è, anzi senza probabilmente, una storia un po' di sempre, a scuola l'educazione è professionalizzante. Cioè, noi siamo passati da un momento in cui la scuola era solo per i ricchi e i poveri non ci andavano. Poi a un certo punto, per tutta una serie di lotte che sono state portate avanti, la scuola è diventata patrimonio di tutti. Ma a quel punto cosa hanno detto? Noi facciamo una scuola un po' diversa, in cui i più ricchi, diciamo, andranno poi a imparare un sacco di cosine intellettualmente brillanti per portare avanti i loro lavori da elite e o le loro chiacchiere da salottino buono, mentre invece i più poveri gli insegniamo un mestiere da poveri tendenzialmente, quindi comunque alla fine vedi l'informazione, l'educazione è sempre professionalizzante, ma a sto giro ci stanno anche facendo un po' un favore, no? Allora, in realtà quando anche non c'è un'educazione professionalizzante, noi oramai nella nostra scuola siamo abituati a studiare, parlo per me in realtà principalmente, ma siamo abituati a parlare, a studiare un po' per i compiti in classe, per l'interrogazione, per l'esame, e poi lasciare correre via tutto quello che abbiamo imparato. Oramai c'è un po' questa tendenza anche fuori dalla scuola a capitalizzare un po' tutto quello che impariamo, no? Quindi tu piuttosto puoi anche imparare a mettere insieme i calzini nella maniera più razionale, ma se è curricolabile allora non hai perso tempo. E qui ti voglio caro Cesa, perché in realtà qui si perde tempo, ragazzi, qua si perde tempo, non c'è nessun motivo per imparare quello di cui stiamo parlando, ma è un po' bello per quello. Esatto, mi sembra un'ottima cosa. E parlando di salottini, noi stiamo mettendo le basi per un salottino cattivo invece che un salottino buono, no? Esattamente, noi siamo salottino cattivo che non può parlare di vacanze per esempio perché non ci va, ma anche non può parlare di un sacco di altre cose, ma un po' il senso è un po' quello, no? Nel senso che uno dice, perché in realtà anche di approfondimenti ce ne sono tanti se ci pensi, il punto qual è che se c'è la crisi economica tu ti aspetti che nell'approfondimento si parli di economia, no? E invece no, noi parliamo di non so, di capibara. Noi parliamo di capibara quando c'è... Che è un famoso giocatore ivoriano che ha militato nel Cagliari. Esattamente, anni... esattamente, da lì il nome tra l'altro. Certo. E se no, non lo so, succede una cosa, sbattimento in Italia e noi parliamo del Canada. Quindi non serve assolutamente niente, magari parleremo di economia fra... 1000 anni, quando non ce ne sarà più bisogno, e però potrebbe succedere anche il contrario, nel senso che potrebbe succedere che ci sia un'invasione di capibara, non il giocatore che si è espanso, ma gli animalini che hanno giovato del suo nome. Però, capito, in quel caso potrebbe essere, per esempio, che noi mesi fa abbiamo parlato di capibara e tu arrivi al tuo salottino cattivo o medio, per fare una cheat, okay, al tuo salottino medio, e hai un sacco di notizie fresche da dispensare a tutti sui capibara. Pensa che versatilità. Incredibile. Potrebbe essere che gli ascoltatori e le ascoltatrici di questo programma saranno inseriti in una delle task force del governo per affrontare il problema dei capibara. Bravo, esattamente. Potrebbe essere, e a quel punto pensa, sarà addirittura curricolabile. Tra l'altro... sarà addirittura curricolabile, ma si dice capibara ma non capobare al plurale, giusto? Esattamente, esattamente. Capobare e sono i quattro omini che hanno diciamo popolato i meme di queste. Quelli che ballano dopo che ti sei bravissimo, fatto malissimo. Esattamente, proprio loro. Ok. Allora io a questo punto, dopo questa sequela di boiate, direi di mettere una musichina così per iniziare con un po' di freschezza. E volevo fare una piccola parentesi su questa cosa, nel senso che le persone come me, con i miei disturbi ossessivi compulsivi, hanno una difficoltà seria. Poi adesso Cesare è uno psicologo, quindi ci potrà dire se sta dicendo una boiata, ma può anche farmelo vedere con la faccia e non ma dirlo. Ma no, guarda, sullo ossessivo compulsivo già c'eravamo con i calzini. Okay, quindi, perfetto. Perfetto, allora praticamente per le persone ossessive compulsive, latenti perlomeno come sono io, la prima cosa deve essere, cioè ha un valore particolare, no? Quindi non so, se io sto scrivendo degli appunti e nella prima riga devo già sbianchettare, cioè butto il foglio, cioè via così. Giusto. Allora, giusto, ok. Mi stai dicendo che sono una persona equilibrata? Ti sto dicendo che se già fosse che la sbianchettatura, a prescindere dal punto, ti fa buttare via perché gli appunti li devi fare super precisi subito, già sarebbe okay. Tutta un'altra questione. Ok, però no, quello riga, si scontra con la mia pigrizia, quindi non lo faccio, però effettivamente in questa prima puntata, con il primo argomento, con la prima canzone, adesso ovviamente la sigla ce l'hanno fatta i Fugazzi apposta, quindi ovviamente non c'era bisogno di scegliere, però anche la prima canzone è stata un po', come dire, complessa, no? Perché ho detto, quale metto come prima cosa? Allora ho deciso di buttarla subito in caciara e lo faccio con un pezzo che si chiama In Alto Alive, che è veramente notevole. Sentiamocelo. Perché noi viviamo qui, tra rumori di una via, tra quella di farmacia, finite le Ed eccoci tornati sulle frequenze di Radio ZM, canzone freschissima, in alto mare anche se non si va in vacanza. A proposito di freschezza, qui ci sono, c'è veramente una temperatura ideale, si sta freschi, a Milano Sud c'è un venticello super carino. È un... Sì, sì, è un gran vivere quello di Milano Sud, devo dire. No, allora, questo qui era a proposito di in alto mare, anche se non in vacanza, questo era Ocean Boy, in un pezzo che si chiama In Alto Alive, che secondo me è veramente notevole, è un mashup fra due pezzoni a sua volta. Uno si chiama In Alto Mare ed è un contenuto in un 45 giri del 1980 della Loredanona Bertè, una donna meravigliosa del panorama musicale italiano, e l'altro, per chi non l'avesse riconosciuto, Shame on You, è Alive dei Beastie Boys. Tra l'altro, Beastie Boys, giganti della scena della Golden Age dell'hip hop americano. Questo è un pezzo però del 99 in realtà, ed è un pezzo che si chiama Alive ed è contenuto in, diciamo, l'unica traccia inedita dentro il loro primo Greatest Hits, che festeggiava nel 99 più o meno i primi 20 anni di attività. Ci sono loro tre, tutti vestiti di giallo, rosso e blu, che vanno in giro per la città, e questo è molto bello. Ma è anche molto bello, diciamo, l'ensemble che ha creato questo Ocean Boy, che non conoscevo ma a cui va tutto il mio apprezzamento. Ora, sfrutto l'occasione, visto che questa era la prima canzone, per parlare anche della musica che ci sarà, perché ovviamente ci saranno dei contenuti, ma essendo una radio ci sarà anche della musica. La musica sarà a casaccio, tanto quanto tutto il resto. E questo lo dico non per altro, ma perché in realtà prima di tutto colgo l'occasione per ringraziare i miei hosts di Zona Rossa, che per gli ultimi 2 mesi mi hanno tenuto mi hanno obbligato finalmente a fare partire la rubrica che poi ha dato origine a questo programma. E in quel caso, in realtà, la canzone che veniva scelta era sempre un po', diciamo, correlata a quello che era l'argomento. Invece in questo caso no, faremo tutto a caso. Quindi potrebbe succedere che ci sia della musica di alto livello, può esserci della musica marcissima, presa bene, presa male, come suggerisce l'anda del giorno. Quindi non vi fate grosse aspettative, come per tutto il resto potreste ascoltare veramente le trashate peggiori del mondo, ma anche della musica veramente di qualità. Quindi tenete conto anche che io sono abbastanza di bocca buona sulla musica, quindi ne ascolto veramente di pessima. Però insomma, oggi in realtà cerchiamo di darci un tono, sarà anche musica decorosa, devo dire la verità. Pensavo che ti sei smentita con la prima canzone, questo era un pezzone. Ma infatti per adesso ci siamo, poi chi lo sa, potrebbe succedere veramente di tutto. E colgo a questo punto l'occasione anche per ringraziare Ivan, che ci ha, oltre ai miei compari di Zona Rossa, colgo l'occasione per ringraziare anche Ivan, che mi ha fornito ormai tempo in memore addietro una vasta cernita di titoli fra cui attingere, e questo qui è stato quello selezionato alla fine, quindi grazie Ivan veramente. Ora io direi, visto che nel frattempo praticamente c'è il signoraggio e durante la canzone ci hanno detto che non va bene, Che noi non abbiamo nessuna utilità, cioè noi questa cosa del superfluo non va bene, non funziona, allora per questioni di marketing noi troveremo qui ora in questo momento delle ottime utilità per questo programma, cioè, quindi dei motivi per cui ha senso ascoltare questo programma, e trasformeremo il superfluo in superfluo, capito? Cioè multicolor, capito come? Questa mia personalità, che si chiama Cesa, dice delle cose sensate. Per fortuna che c'è quella, perché sennò io non so alla fine cosa ne sarebbe della mia vita. Allora, i possibili usi, per esempio, proviamo a metterci in delle situazioni X in cui, nel frattempo salutiamo Crudoz, che ci ha raggiunto in studio, ma se ne andrà molto presto perché siamo brutti e puzzolenti. Così presto che se n'è già andato. E pensiamo per esempio dei possibili utilizzi, non so, situazione X, ti trovi in attesa di, del tuo medico di base per una semplicissima ricetta, diciamo, che non implica particolari sbattimenti. Tipo la torta di mele. Tipo la torta di mele, qualsiasi cosa stia dicendo Cesa. C'è il la ricetta, va bene, ok, perfetto. Spero che questo problema delle multipersonalità si risolva presto, così possiamo salutare... No, scherzo. Allora, no. Se vero ma giusto. Allora, vai dal medico, tu stai aspettando una cosa super tranquilla, ti si piazza vicino, non tanto vicino perché oramai c'è il distanziamento sociale, ma abbastanza vicino per tirarti in mezzo il tizio che ti racconta di un sacco di malattie probabilmente soffocate nel secolo XIII, di cui lui sente i sintomi, e ti attacca un pippone che tu non riesci a svicolare perché sei, ahimè, l'unico, l'unico personaggio in questa sala d'attesa oltre a lui, da cui il titolo, tra l'altro, o no? Giusto. Ecco, allora lui appunto ti sta attaccando la pezza, a te sta salendo una ipocondria che mai nella vita, lo guardi fisso e gli racconti dei gerbilli. Gerbilli? Che gerbilli, sono... tac, sono amici dei capibara, giocavano come centravanti nell'Empoli. Gerbilli, certo. Gerbilli, certo, esattamente, certo. Quindi tu, basta, lo blocchi così, no? Oppure, non so, situazione Y, sei alla cena di Natale della famiglia con migliaia di parenti che non vedi da 200 anni e sei riuscito a svicolare nelle ultime 6 ore qualsiasi tipo di discussione imbarazzante e o, diciamo, compromettente. Sei già lì che ti gusti il fatto di avere, di essere sopravvissuto, e invece no, arriva lo zio, diciamo, che non becchi da 200 anni, che ti dice: ma alla fine quando è che ti laurei? E tu lo fissi negli occhi e gli parli del rizoma di Deleuze. O no? O no, Pica? Sì. Questo può essere utile. L'ha detto, mi ha svegliato dal... L'ha detto. Riemergo. In quel momento lì cosa può succedergli a lui? Gli si spalanca un universo. Un mondo, e dimentica la tua laurea. Allora, praticamente che cosa succede? Che man mano che tu vai avanti nelle puntate, no? Tu, io, altre personalità, tu chiunque abbia intenzione di ascoltarci, tu puoi affinare la tecnica, capito? E quindi, certo, quando sarai veramente veramente bravo, a un certo punto succederà che ti stanno interrogando per l'ultimo esame sul calcolo probabilistico e tu non sei riuscito a studiare, guardi con convinzione la tua docente e via, gli parli del lievito madre. 30, elode, con bacio accademico, con lievito madre accademico. Con lievito madre accademico. E quindi, insomma, come vedete, in realtà questa informazione, questa conoscenza superflua, conoscenza superfluo, diventa assolutamente utile. Anzi, direi quasi indispensabile. Direi di sì. Quindi, alla fine, dimenticate tutto quello che abbiamo detto. Questo programma è fondamentale. È quello che fa per voi, ragazzi. Ascoltatelo tutti. Detto questo... diciamo, ok, l'abbiamo detto, vagamente si capisce che cosa stiamo per andare a fare, però in realtà questa cosa, nella sua immagine iniziale, che risale probabilmente al 2000, aveva un immaginario, no? Nel senso che queste informazioni hanno un altro utilizzo nella vita di tutti i giorni, che è quella di giocare a Trivial Pursuit. Ah, giusto, certo. Quindi fondamentalmente in Trivial Pursuit che cosa succede? Che ci sono le tue tortine, tu tiri il dado e a un certo punto ti infili man mano nelle varie caselle, e un pezzettino alla volta tu acquisti degli spicchietti, no? Allora, gli spicchietti sono 6, di 6 colori, e noi ce li abbiamo tutti. sono geografia con l'azzurro, spettacolo e società con rosa, storia che è giallo, arte e letteratura marrone, natura e scienza verde e hobby e sport che è l'arancione. Allora noi quello che cercheremo di fare è di puntata in puntata cercare di, diciamo, equidistribuire queste brillanti perle di saggezza in queste sei spicchietti e pezzettino alla volta comporremo questo Trivial Pursuit infinito, fondamentalmente, che ci servirà a vincere un miliardo di milioni di triliardi di euro. Esatto, o alla peggissimo proprio convincere tuo zio alla cena di Natale a non rivolgerti la parola. l'altra alternativa è questa, cioè fondamentalmente l'altra possibilità è questa. Ora, che cosa succede giustamente a proposito di tuo zio? Che una delle caratteristiche comuni di queste tecniche diciamo per indurre smarrimento nei tuoi avversari, come forse un Pokémon, ma io sono troppo vecchia per saperlo. Qual è, diciamo, una dei fondamentali di questa cosa? Che tu devi guardare fisso negli occhi una persona. Quindi non puoi assolutamente distrarti per tirare fuori il telefono e fargli vedere il video dei tizi che ballano. Non si può, perché la professoressa potrebbe non darti il lievito madre accademico. E quindi, per questo motivo, che è in realtà anche ciò che è potentissimo, no, della radio, noi di video e di immagini che strabordano in questo 2020 e in questo 2019-2018 non ne vedremo neanche una, perché siamo in radio, giustamente. E quindi in radio che cosa si può fare? Niente, no? Si può agire solo su l'udito. E quindi noi che cosa facciamo? Noi cercheremo, questo nel mio sogno malato, spero che succederà un pezzettino alla volta e spero che contribuiranno tutti a renderlo possibile in questo infinito gruppo di autori che potrebbe diventare gigantesco. Noi potremo provare a levarci, diciamo, le immagini, i video, ma iniziare ad utilizzare tutta una serie di altri strumenti. Quindi noi, non lo so, potremmo parlare di qualche cosa e infilarci dentro una citazione in un film, potremmo metterci una canzone, potremmo metterci, non lo so, dei versi di animali, ci mettiamo dei versi di animali, adesso non so, il verso di Cesa è questo che sentite, ma dei capibara ancora non lo sappiamo. Potremmo fare un sacco di altre cosine, no? Potremmo leggere, che so, dei pezzi di libro, potremmo leggere delle poesie, potremmo fare un sacco di cose. Fondamentalmente siete tutti invitati a scagliarvi alla ricerca di fonti esterne. Quindi tutto ciò renderà questo programma, aspetta che lo dico con un momento di sacralità, renderà questo programma monosensoriale ma multimediale. Mamma mia, livelli! Vi lascio un po' di tempo per capire quanto cazzo sono intelligente. No, scherzo, però vedi, ad incontrare amici curatori faccio anche un po' la brillante. In realtà questo è un po' il senso, diciamo, in linea di massima. Beh, sì, trovare come delle pillole di saggezza nelle pieghe del superfluo. Bravissimo, esattamente. Niente popò di meno che. Quindi in realtà questo è fondamentalmente il senso, questo è quello che vorrebbe diventare questo programma, ma aggiungo che io ho poche cialtronerie da dire. Sarebbe bello, e con sarebbe bello dico sarebbe bello per me, sarà un incubo per voi che verrete raggiunti dalle mie tempestate di telefonate. Con voi ti riferisci a Chiara sempre? No, questa volta no, okay. Mi riferisco con un pubblico a casa che probabilmente nel 95% dei casi non sa ancora di essere pubblico, nel senso che non basterà non ascoltare, non basterà neanche fare finta di non aver ascoltato né cambiare numero di telefono, io vi raggiungerò lo stesso. E quindi, non lo so, per quanto sia interessante molto poco sentire cose da me, sarebbe bello, non lo so, faccio un breve elenco così con quelli che mi vengono in mente. Allora, io ho degli amici che fanno gli storici, ho degli amici che fanno gli storici dell'arte, ho degli ingegneri, degli architetti, ho addirittura degli utai, ho degli artisti, musicisti, biologici evolutivi, biologi evolutivi, o un sacco di altri ingegneri informatici, matematici, chimici. Allora, voi pensate che questa cosa non riguardi voi, ma riguarderà voi, perché io spero, voglio sperare che il meno tempo possibile lo passerò qua con queste due persone che ho di fianco. No, non è vero, spero che rimangano, però spero che a loro si aggiungano diciamo un po' di esperti che ci vengano a raccontare un po' di cose più intelligenti di quelle che avrei da dire io. Anche se volete, se avete degli amici che ne sanno e voi li odiate molto, potete darmi il loro numero di telefono e obbligarli a venire qui. Ci sarà qualcuno che fingerà che la distanza sia un problema? Non è un problema, raga, ci sono i telefoni, ci sono i telefoni, possiamo fare delle zoomate, il lockdown ce l'ha insegnato, quindi fondamentalmente ritenetevi bloccati in questo impegno che non avete richiesto, perché ognuna di queste cose sarà particolarmente possibile se sarete, come dire, voi a darmi una mano. In questo caso possiamo dire che appalti truccati e raccomandazioni sono la base, sono la base, non sono solo accettati, sono la base, quindi assolutamente. Tra l'altro, anche se qualcuno non ne sa assolutamente niente di un argomento, ma vuole venire qua di imparare qualche cosa e a scartabellare delle cose insieme a noi, ovviamente è super mega benvenuto. Quindi io a questo punto direi, visto che stiamo dicendo delle vaccate da tempo immemore, di mettere un altro pezzo e poi partire subito dopo con entrare un po' più nello specifico di quello che sarà l'argomento di questa puntata. You can blow with this, or you can blow with that. Eccoci qui. Allora, questa era Weapon of Choice, era un pezzo di Fatboy Slim che in realtà probabilmente molti avranno riconosciuto, nel senso che non è solo un pezzone, ma in realtà è anche un video della Madonna. Credo che in realtà questa canzone sia diventata particolarmente famosa per il video, che ha vinto veramente una manata di premi. In particolare il video era di Spike Jonze, niente po' di meno. Questo è un pezzo del 2001, il video era di Spike Jonze e vede un delizioso Christopher Walken che balla e vola in giro per una hall di un albergo deserto. Padre di Angelina Jolie. Padre di Angelina Jolie, niente po' di meno che. Ma in generale, diciamo, il video è veramente notevole. E, dicevamo, quindi adesso abbiamo finito di dire le nostre vaccate e diciamo che forse è il caso, è arrivato il momento di svelare l'argomento di questa trasmissione, diciamo di questa trasmissione, di questa puntata. E l'argomento di oggi sarà un filo più breve del solito, nel senso che abbiamo già occupato un sacco di tempo con i nostri flussi di coscienza totalmente richiesti. E quindi dove ci spostiamo? Cioè non abbiamo ancora, non c'è ancora neanche uno spicchietto alla nostra megatorta. Quindi direi che lo spicchietto di oggi è quello marrone. Quindi ti sei già dimenticato, ma è arte e letteratura, in teoria. In realtà qua siamo abbastanza sui limiti, nel senso che l'argomento di oggi ricade nell'ambito della linguistica, ma per prossimità mi sembra che potesse direi essere, che, come dire, sì. Che vale letteratura, no? Ok, allora siamo perché ci sono le lettere, certo, quindi se ci fossero i numeri sarebbe scienza, tu mi insegni, ovviamente, certo. Evidentemente, a meno che tu non sia un rapper americano di nuovissima generazione, in quel caso potrebbe essere anche il tuo nome, sì. Ho scoperto che c'è un ampio uso dei numeri, l'ho scoperto ovviamente pur essendo molto giovane. Io sono una ragazzina, quindi in realtà sono praticamente tutti i miei coetanei, però in realtà abbiamo scoperto questa cosa. Quindi in realtà oggi siamo sull'ambito della linguistica e in particolare siamo nella branca della semantica, quindi di quello che è un po' il significato delle parole o delle frasi in realtà. E l'argomento di oggi, in particolare rullo di tamburi, è la enantiosemia. Dun dun dun dun. La enantiosemia. Semia, non so neanche come scriverlo, esatto, come sillabarlo, per usare un italianismo, sono sillabe, no, se no dovremmo dire spelling, ma questo non succederà, caro il mio Cesa, non mi sfidare, non succederà, no. Allora, l'enantiosemia che cos'è? L'enantiosemia è definita come, adesso lo leggo perché sono un po' così, forma di polisemia che si verifica quando una parola ha più significati fra loro opposti. Quindi, come funziona? Allora, la polisemia come funziona? Ci sono un sacco di parole che hanno più di un significato, no? E questo è la polisemia, cioè ci sono poli, molti, semia, che è, diciamo, significati. Per esempio, uno dei più classici è il verbo passare, quindi noi abbiamo il tempo che passa, si può passare un esame, quindi si può superare un esame, si deve passare con il verde e non con il rosso, quindi bisogna attraversare la strada, diciamo, con il verde e non con il rosso, però per esempio si può anche passare la verdura, o certo. Cioè il passato di verdura o la passata di pomodori. Passare il sale. Si può anche passare sale, esattamente. Quindi ognuna di queste cose, diciamo, è un significato della stessa parola. Un'altra parola è penna, quindi c'è, cioè, la penna Bic, diciamo, senza fare pubblicità occulta, ma la stiamo facendo. C'è la pasta, ci sono le penne della pasta, ci sono le penne sui copricapi dei nativi americani, ma ognuna di queste cose, da non confondere, certo, fra di loro, che non è il caso, insomma, cioè, delle penne al pesto Bic non è il caso, non è mai il caso, però in realtà è la stessa parola che ha tanti significati. Anche pesto. C'è anche pesto, che è buio pesto, ma c'è anche testata, per esempio, giusto? C'è anche testata, quindi c'è la testata giornalistica e quella che vorremmo dare, esatto, ad un sacco di persone. C'è rete, c'è classe, certo, c'è puntata. Testata anche. Bravo, esattamente. Il bacino d'utenza, il bacino dei. Esattamente, c'è anche puntata, cioè questa è una puntata di ginnastica per sale d'attesa, ma c'era anche una puntata sul fatto che non succedesse mai questa cosa, cioè c'erano delle scommesse, certo, sul fatto che non si sarebbe mai verificata questa prima puntata, no? Quindi ognuna di queste cose è una polisemia. Allora, l'enantiosemia è un caso particolare di questa polisemia, nel senso che, ritorniamo, c'è una sottocategoria di questa polisemia, e torniamo a dire che è la forma di polisemia che si verifica quando una parola ha due significati tra loro opposti. Infatti arriva dal greco, in realtà, cioè enantios, che vuol dire opposto, e semaino, che è il verbo, diciamo, che significa, che vuol dire significare, fondamentalmente. Quali sono degli esempi di questa cosa? Per esempio, questa cosa secondo me è estremamente, come dire, intrigante. Potete giocarvela bene anche se vi chiedono il calcolo probabilistico. In realtà, secondo me, se gli tirate fuori l'enantiosemia, ci sta. Perché la probabilità che il professore sappia che cos'è è molto bassa. È molto bassa, quindi, come vedi, te la puoi giocare in svariate maniere. Allora, per esempio, degli esempi di enantiosemie sono sbarrare. Cioè, tu puoi sbarrare la porta, quindi la chiudi e la tieni bloccata, ma puoi anche sbarrare gli occhi, per cui li apri. Cioè, stai sgranando gli occhi, quindi uno è il contrario dell'altro. Allora, dopo questa c'è almeno una dozzina di rapper che ha avuto un attacco di cuore. Bravo, esattamente, qua ti volevo, infatti potevo fare una discografia su giochi del genere. Esattamente, ma noi ve li forniremo tutti in maniera che poi quando li farete sarete già stati, come dire, anticipati da noi, pappappero. Quindi non basta, la vostra discografia non vale niente. No, scherzo, potete fare tutto quello che volete, l'italiano è un po' di tutti. Allora, per esempio, un altro termine è feriale, nel senso che il periodo feriale, che è il periodo delle ferie, ma ci sono i giorni feriali che sono opposti ai giorni festivi, quindi in realtà vuol dire sia il giorno di lavoro che il giorno di vacanza. Per esempio c'è anche, uno dei miei preferiti è ospite, nel senso che non capisci mai, giusto. Cioè, sei mio ospite... Non lo so, dimmelo tu. Nel senso che l'ospite è sia chi ospita che chi viene ospitato. Quindi in realtà nella relazione fra due persone entrambi sono ospite. Siamo tutti attori, come diceva. Siamo tutti attori, siamo tutti il nostro mentore. Come diceva il nostro mentore, siamo tutti attori. E, tirare è un altro bellissimo, esatto, è un'altra enantiosemia, nel senso che si può tirare una palla, per esempio, ma si può anche tirare la porta, quindi in un caso si lancia verso l'esterno, quindi da fuori da sé, ma nell'altro caso si può, diciamo, tirare la porta vuol dire tirarla a sé, quindi in realtà fondamentalmente è una cosa e il suo opposto. Ce ne sono degli altri, man mano li citiamo un po' tutti. Uno degli altri io è... sono senza parole. Tu sei senza per parole. Questa serie di Guarda che questa cosa qui, comunque, non solo i rapper ma anche gli hipsterini possono fare delle ballate di 16 minuti con la loro voce senza nessun tipo di chitarrino sotto. Possono fare un sacco di cose, insomma. Come vedete mi sto, vedi, questa informazione è utile. Sì, ecco, spero che nelle pieghe del superfluo di questa trasmissione non ci siano hipster o canzoni indie che si ascoltano. Allora, no, ci sarà solo quando parleremo di paracetamolo, in quel caso sì. Ok, va bene. Sì, in quel caso sì. Ma ne parleremo proprio con Calcutta, sarà il nostro ospite in studio, ovviamente. Certo. Allora, sicuramente... Vediamo se la testata di prima fa male anche... vediamo quale testata arriverà. Una testata giornalistica, forse? Forse sì. Forse, chi può dirlo? Allora, per esempio, un'altra parola che non dico che mi viene in mente perché quelli che sono in studio lo vedono, che c'è un foglio davanti, quindi in realtà c'ho il bigino, come ai cari vecchi tempi del liceo. Per esempio... Giusto perché prima abbiamo citato In alto mare di Loredana Bertè, alto, cioè alto è sia alto di una montagna, quindi in alto sul livello del mare, sì. Ma l'alto mare è un mare particolarmente profondo, quindi in realtà è molto molto basso. Ci avevi pensato? Non ci avevo mai pensato. Non ci avevi mai pensato? Serie di vetrine nella mia testa che si rompono a un'ora di testa. Esattamente. La regia riemerge, è arrivato un messaggio, un altro messaggio, una testata nei denti. Grazie mille. Riferito a Calcutta, a immagino. Ah, ok, perfetto. Pensavo a noi, con noi intendo sempre me. Certo. Per esempio, ecco, una a cui io sinceramente non avevo mai pensato, ma è Avanti. Nel senso che non ci avevo mai pensato, perché io sono un po' nordica e quindi non è un modo di dire, diciamo, che mi si confà particolarmente, ma avantieri vuol dire il giorno prima di ieri, cioè l'altro ieri. No, poi anche perché sei molto giovane, perché avantieri nel 1700 era proprio esatto, comunissimo. Era sulla bocca di tutti, ma in realtà adesso invece da qui in avanti, quindi non è più indietro Cristo, nel tempo. Effettivamente è prima di Cristo. Avanti Cristo, bravo, vedi che i neuroni ce ne sono pochi, ma rimbalzano abilmente fra le teste presenti. Per esempio, affittare è sia, cioè l'affitta camere, non è che le affitta da te, sennò, certo. Se no sarebbe uno sbattimento. L'affitta camere affitta le sue camere, ma se tu devi affittare la camera dall'affitta camere, l'affitti comunque, certo. Cioè alla fine stiamo dicendo la stessa parola. Secondo in inglese invece sono due verbi ben distinti. Sono due verbi ben distinti, ma in realtà ce ne sono anche in inglese. Adesso ti stupirò, dopo te li dico anche in inglese. Vedi ce ne sono, di antisemia ce ne sono dappertutto. Oltre che polisemico è anche poliglotta. È tutto, raga. Ogni tanto a un certo punto inventiamo anche delle lingue. Facciamo finta che siete delle lingue che voi non sapete e diciamo delle consonanti in fila, infinita. Così, la lingua codice fiscale. Esatto, e sosteniamo che sia una lingua... No, cercheremo di essere da questo punto di vista abbastanza... Perché sappiamo che vi volete guadagnare il vostro lievito madre accademico e quindi non diremo delle bugie. Noi siamo contrari alle bugie. Siamo a favore delle storie. Attenzione, perché storia è un'altra in antisemia. Attenzione, perché non mi contare storie, contare poi tra l'altro come se fosse un altro verbo che si usava insieme avantieri, contare storie, no, le storie sono evidentemente delle storie, come dire, finte, ma d'altro canto sono anche delle storie vere, quindi in realtà è un'altra parola che vuol dire una cosa e anche il suo opposto, pauroso, curioso. Cioè pauroso è sia chi ha paura che chi fa paura. Curioso è sia chi incuriosisce che chi incuriosito. Cioè pensate quanta gloria c'è in tutto questo. Quanto risparmio di parole nella lingua italiana. Quanto risparmio di parole. Ma in realtà secondo me c'è qualche cosa di filosofico anche. Adesso la butto sul filosofico. Nel senso che una delle cose divertenti della lingua è un po' questa. Nel senso che ovviamente tu nel momento in cui dai un significato stai rapportando delle lettere fondamentalmente che sono messe lì più o meno a casaccio, che non sono lì messe a casaccio, però insomma quando le inventi probabilmente sì, e gli stai dando dei significati, no? E quindi il fatto che ci siano alcune parole che hanno dei significati, ma ti dirò di più, basta, adesso non finisco nessuna frase, faccio okay. Avanti così, faccio una trasmissione in cui non finisco nessuna frase. È arrivato un altro messaggio in regia: questo programma è ipnotico. È un'altra parola che può voler dire sia, diciamo, che ti fa pensare un sacco, sia che ti addormenta. Ipnotico è eritmosemia, come cazzo è la parola. Però questa cosa qua potrebbe non essere un'enantiosemia, perché vedi, in realtà se è ipnotico e ti fa addormentare, l'ipnosi e l'addormentarsi, tutto sommato, sono correlati. Invece in questo caso stiamo proprio andando a ribaltare, cacciare, che non sto cacciando nessuno ovviamente, ma non so perché mi sia venuto in mente, però per esempio cacciare via, quindi mandi via una persona, ma se tu cacci un animale qualsiasi, che è importante che non... qualsiasi animale, dico qualsiasi animale perché noi siamo profondamente antispecisti e quindi qualsiasi animale sia per va noi... viene da uccidere. Va bene da uccidere, esattamente. Però cacciare una lepre, ok, bisogna corrergli dietro. Quindi, come dire, le due azioni sono una all'opposto dell'altra. Spolverare, ci avevi pensato. Spolverare un mobile vuol dire togliere la polvere. Ma nelle ricette, che non sono quelle del signor Madonna ipocondriaco mia, di prima. Incredibile, una spolverata di... Una spolverata, la metti la polvere. Cioè no, non metti la polvere, metti per esempio lo zucchero a velo. Per esempio. Quindi in realtà ognuno... Però magari di... se è una vecchia ricetta, tipo della nonna... Certo, c'è anche la polvere. Sì, sì, sì. Possibilmente sì. Se poi, come dire, una vecchia ricetta del medico, potrebbe succedere l'impensabile. Tutto, sì. Potrebbe succedere di tutto. A quel punto non so come andrebbe a finire. Ce ne sono altre, vediamo un po'. Io mi sto mettendo nei panni dello zio, sempre nella cena di prima, e mi sono pentito di averti chiesto della tua laurea. Bravo, questo è il senso, questo è il senso, perché raga, il punto è esattamente questo, cioè tu devi, basta, annichilire il tuo avversario, cioè puoi andare avanti, se alla 140esima parola non controllerà neanche più. Se si tratta veramente di un'antiosemia, vorrà solo uscire da quella stanza. E tu, caro mio, avrai vinto. Ma potrebbe essere che il segretario Zingaretti ti abbia hackerato il computer e si sia preso la tua idea? Che lui annichilisce e fa scappare la gente? Può essere? Con i suoi discorsi potrebbe essere. Carismatici? Potrebbe essere, sì, non lo escludo. Del resto lo fa, lui lo fa, di solito ascolta le trasmissioni radio e ruba quello che può, insomma, diciamo. Niente, fondamentalmente queste sono, adesso stavo guardando se ce n'era qualcun'altra, c'è sposare, per esempio, che vuol dire sia dare in sposo che prendere in sposo, quindi il prete sposa... Ho sposato mia figlia! Hai capito? Certo, perché il prete o il padre nelle famiglie un po' demodè, che dà in sposa e o celebra il matrimonio, sta sposando, ma evidentemente anche la figlia sposa. Sposa il proprio... il futuro genero che non andrà bene, penso. Sì, diciamo questo fondamentalmente. Ce n'è qualcun'altra, c'è bandire, per esempio, c'è sanzionare, stando nel linguaggio un po' più giuridico, c'è anche fondere, per cui per esempio tu fondi, cioè io di solito fondo per togliere la forma qualche cosa, quindi si fonde il cioccolato, ma in realtà gli scultori con le loro opere meravigliose d'arte fondono una statua dandogli la nuova forma. Guarda, che avrà. Per filosofeggiare, quando uno fonda un gruppo gli dà una forma. Bravo. In realtà non, in questo caso non vale, perché in un caso fonda e nell'altro fonde, ma in realtà, considerato che la radice è la stessa, direi che vale. Direi che questa, a sto giro vale. Forse ipnotico non lo so, ma a sto giro lo diamo un punto. Abbiamo vinto. Non male, superfluità, non questa superfluità male. Tra l'altro, a questo punto, man mano andiamo a scalare fino a finire questa serie di baggianate. E, torno su quello che dicevamo prima, nel senso che il termine in antiosemia l'ha inventato un tizio che si chiama Edward Pocock, che è un biblista e orientalista inglese del XVII secolo, quindi del 1600, e giustamente lui non studiava l'italiano, evidentemente, ma essendo orientalista, come potrai immaginare, studiava altre ed essendo inglese studiava altre lingue, quindi nel caso specifico lui studiava l'ebraico, l'aramaico e l'arabo, e quindi questo, diciamo, ci fa dedurre che in realtà questa enantiosemia è un fenomeno che non riguarda solo l'italiano, ma anzi ce n'è un sacco in giro per le varie lingue. Quindi purtroppo l'aramaico, okay. L'aramaico rientra nelle caratteristiche di quelle che posso dire tipo e fingere che sia un vero termine, ma in realtà no, ce ne ho uno. Diciamo, io so due lingue oltre all'italiano, e quindi ve le dico in quello. Cioè, uno che è l'inglese, e che è la lingua del buon Edward Pocock, e l'altro è lo spagnolo. Allora, per quanto riguarda l'inglese, a questo punto chiederei di cambiare, anche se Superstition è un tappeto musicale della Madonna, ma in realtà chiederei a Lawrence di metterci come tappeto musicale una traccia che è, adesso te la dico, quella lì precisamente, quella lì, nel senso che una delle prime parole, che è banale in realtà ma è tutt'altro che banale, dell'inglese, che è un'enantiosemia, è la parola fast. Ora, fast lo sappiamo tutti, l'abbiamo imparato alle elementari, vuol dire veloce. Però in realtà fast, per chi l'inglese lo sa un po' meglio, è anche un, diciamo, anche un altro, ha un altro significato, e in questo non funziona forse il Allora, non so se l'inglese, vai, mi sento di dire, vai, che lo so proprio, buttati, benissimo, però fast, breakfast, non c'entra. Fast no, come digiuno? No, ma diciamo in quel tappeto musicale, che non so se partirà mai, ma per tutti i tamarri all'ascolto di una certa età, hanno ascoltato i Pendulum, cioè una delle loro tracce principali, che si chiama Fasten Your Seatbelts, perché in realtà allacciare le cinture, anche chiunque abbia viaggiato in aereo, diciamo, più di una volta fuori dai confini italici, perché Fasten Your Seatbelts vuol dire, diciamo, allacciarsi le cinture, perché fast vuol dire fisso, saldo, e quindi in realtà, attenzione, in realtà vuol dire esattamente il contrario che veloce, in movimento. Quindi, come dire, già questo è un'enantiosemia. Un'altra, hai capito Pocock? Hai capito? Pocock. Pocock. Tra l'altro Pocock era un signore, se ve lo andate a cercare, non ve lo andate a cercare perché noi non parliamo assolutamente per immagini, ma ve lo dico io, è un signore che ha un pizzetto veramente impegnativo. Eccolo qua, eccolo qua, questo qui, Fasten Your Seatbelts, con questa delicatezza di sonorità, è effettivamente un pezzone dei Pendulum. Ed è intitolato a Fasten Your Seatbelts, diciamo, si intitola Fasten Your Seatbelts, cioè allacciarsi le cinture. Mentre va in sottofondo questa meraviglia, diciamo, che mi fa sentire un po' più giovane del solito, che già sono molto giovane, quindi insomma, come vedete, praticamente fa tornare bambina, praticamente in culla. Ne diciamo delle altre, tanto la traccia scorre in sottofondo. Per esempio, un'altra parola che possiamo, diciamo, utilizzare spesso è left in inglese. Nel senso che left è il passato, diciamo, è il come si dice? Hey. Passato prossimo. È il participio passato di leave. Quindi vuol dire andatosene, fondamentalmente, no? He left, cioè se n'è andato. Ma se ci pensi, ci sono anche delle locuzioni per cui, se tu hai mangiato, se c'erano come i problemini delle elementari, se ci sono 5 mele ma tu ne hai mangiate 4, there is one left, ce n'è una sola, ce n'è una che è rimasta. Quindi in realtà vuol dire sia andarsene che rimanere. Poi in realtà, come dire, questo tra l'altro mi dà anche l'occasione di dire, non ovviamente, per esempio, left ha un sacco di altri significati, cioè vuol dire anche sinistra. Quindi in realtà questo è polisemico. Nella polisemia c'è questa sottocategoria di enantiosemia. Possiamo, forse è un po' tirato per i capelli, però una cosa sinistra è una cosa un po' spaventosa, no? La sinistra è la cosa più bella e meravigliosa e... Caro mio, sarebbe bello se fosse così, ma temo che sia una di quelle cose che valga nella linguistica originale, ahimè, la sinistra è sempre male, in tutte le lingue tra l'altro. E la destra è sempre bene. Pensate voi che mondo orrido questo. No, non è vero. Però diciamo che purtroppo bisogna prendere atto che effettivamente un sinistro è una cosa male, mentre invece destra, se ti arriva in face, soprattutto se ti arriva insieme con la testata non, esatto, giornalistica. Per esempio, No, ecco, per esempio c'è un altro caso, c'è un altro esempio in inglese che è uguale, identico all'italiano, e cioè quello di la cosa di spolverare che dicevamo prima, to dust, che vuol dire effettivamente spolverare, vuol dire spolverare esattamente come in italiano, quindi sia fare la polvere che riempire, per esempio, di zucchero a velo la vostra torta. Il vostro manicaretto. Esattamente, esattamente. Per cambiare lingua, perché siamo effettivamente poliglotti, oltre che polisemici, come giustamente ricordava Cesa prima, in spagnolo, per esempio, lo spagnolo è una lingua che ha diciamo molte similarità evidentemente con l'italiano, ed effettivamente buona parte delle enantiosemie che si verificano in spagnolo sono le stesse che in italiano. Quindi, per esempio, huésped, che vuol dire ospite, vuol dire ospite esattamente nelle due declinazioni dell'italiano. O per esempio alquilar, che vuol dire per l'appunto affittare, ha entrambe le determinazioni, e altrettanto è día feriado, che è il dia della feria, quindi il giorno di festa, ma anche il giorno feriale, tanto quanto tutto ciò che dicevamo prima. La cosa molto bella con cui voglio concludere questo momento di grande conoscenza è che in spagnolo, siccome vogliono fare un po' i diversi almeno su alcune cose, non si chiama enantiosemia, che è un po' troppo altisonante, ma si chiama autoantonimos, cioè autocontrari fondamentalmente, che è anche il nome che usano in inglese. Ma in inglese, e qua la metto sul, cioè la lancio sul sentimentale, questa mi sa di chicca vera, eh? Questa è di chicca vera, perché in inglese altrettanto si chiama autoantonyms, ma ha anche un altro nome che è molto bello e si chiama Giano's Words, cioè sono le parole di Giano, dove tu mi insegni, Cesa, che Giano è bifronte. Giano bifronte è il dio romano con due teste, perché guarda al passato, al presente e al futuro, e quindi in ogni, diciamo, raffigurazione viene presentato come con una testa davanti e una testa sulla nuca, ed è un po' diciamo il dio dei doppi, no? Cioè dei contrari. Ed effettivamente l'inglese, che pur normalmente non straborda di poesia, però in realtà in questo caso ci caccia fuori questa denominazione molto bella, cioè le Janus Words, e tutto questo è meraviglioso. Molto possiamo bello. Dire che è meraviglioso. Molto bello, molto bello. Tra l'altro, questo, con questo la smetto. C'è praticamente l'enantiosemia. Noi abbiamo parlato dell'enantiosemia nelle parole, perché ovviamente è la parte più semplice, no? È la cellula originaria, ma in realtà l'enantiosemia potenzialmente può valere anche nelle frasi, e questo è ciò che ha dato diciamo origine ad alcune battute, per fortuna non tante, tutte di una bruttezza rara, ma io aspetterò a darvelo, ve ne dirò una subito prima di salutarci, così non vi potete pigliare troppo male, non potete insultarci troppo, e la dedicherò a Cesa, ma anche un po' a Nino, con le loro battute brutte, sperando che non la usino mai per nessun motivo. Tra l'altro niente, però mi è venuto in mente una, possiamo dire, una riflessione, visto, ma guarda, diciamolo come ci insegna Mai dire gol, che i nostri nonni, in quanto noi super giovani, certo, non abbiamo potuto vedere, i nostri nonni ci hanno raccontato di, certo, questo mirabolante programma televisivo. Ci ha insegnato che c'è una lingua in cui tutto questo ambaradam non può avvenire, che è il sardo, perché il sardo, immagino, è quella lingua che non è un dialetto, dove esiste una parola per tutto. Esattamente, quindi... ma c'è anche un caso di polisemia però nel sardo, come tu ben sai, che è la parola franco, che ha un sacco di significati, e tutti uno più importante dell'altro. Questo è un po', diciamo... Allora, io direi a questo punto, siccome... diciamo a breve ci saluteremo, direi che ore si sono fatte, direi che a breve ci saluteremo, io direi di mettere l'ultima traccia, che siamo un po' sul gruvettino prima della ricetta dal medico di base, prima della ricetta del medico di base e della battuta brutta, io metterei l'ultima traccia, che è di una meteora meravigliosa americana, americana, statunitense, verrà bandita la parola americana da questo programma? Ci saranno delle scosse elettriche ogni volta che qualcuno dice americano intendendo statunitense? Non va bene, raga, non va bene. Il 2020 è quello di Stati Uniti. E nel 2020 si potrebbe far tornare in auge invece che statunitense sporco Yankee. Anche, perché, però dipende a chi ti rivolgi. Certo. Perché ci sono anche personcine a modo. Ma l'importante è che i cileni, tanto quanto gli statunitensi, sono americani, e quindi noi non diremo americani mai per nessun motivo, quindi diremo che c'è una meteora meravigliosa statunitense che ha regalato poche tracce in realtà ai noi. Nel 1990 in particolare ce n'è una che abbiamo qua nel nostro archivio magico, che è Grooves in the Heart di D-Light. Quindi mettiamo questa e poi ci salutiamo. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. Myself a dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Eccoci qua, insomma, questi erano i Delight. E questa è, diciamo, la fine della puntata. Come giusto che sia, vi lascio con questo momento di bassissimissima o altissima, a seconda dei punti di vista, intesa come profonda. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, vedi, cioè, capito? Questo, quindi vi lasciamo con questo esempio di enantiosemia, diciamo, dedicata ad una frase, e la battuta è la seguente. Siete pronti? Sì, mi sto tenendo sto al lasciando, della radio. Sto lasciando un po' di attimi di suspense. Il fiume vicino a casa mia ha delle acque molto sporche. E il vostro? Pure. Vi lascio 40 secondi che arriva. Mamma mia. Madonna, è arrivata dopo, ma l'ho sentita tutta proprio. L'hai sentita tutta? È arrivata tutta, purtroppo sì. Ce n'è anche un'altra, vuoi sentire? Sì. Te la sei meritata. Ti prego. Allora, questa potremmo posizionarla in una... non so, la vecchia zia, visto che prima c'era lo zio, adesso per quote rosa mettiamo anche la zia, che giustamente ha una serie di caramelle infinita nella borsa, di cui parecchie scadute nel neolitico, e alcune ha gusti che non possono essere neanche tradotti in italiano, e quindi lei chiede se vuoi cercare fra le sue caramelle una che ti piaccia, e tu rispondi: le ho scartate tutte. E la zia muta. Capito, la zia, capito, è annichilimento. Enantiosemia è annichilimento, raga. Allora, questa è la cosa, ginnastiche per sale d'attesa è annichilimento. Questa è la cosa meravigliosa di Radio ZM, che ci ha tenuto compagnia nelle lunghissime giornate di quarantena e continua a tenerci compagnia in questo modo orribilmente meraviglioso anche dopo la quarantena. Pazzesco. Anche quando potevate avere delle scuse per non farlo più. Potevate avere di meglio da fare, ma esatto, sarete comunque attaccati ci con saremo, le vostre orecchie. Saremo comunque qua. E niente, con queste due battute orrende noi vi salutiamo a questo punto. Avete qualcosa da aggiungere? Pica. Tu, regia silente. Rimergo nell'aula regia, che ovviamente è lontanissima. È lontanissima. Cioè, sì, certo. Stiamo parlando, no, io. Il punto, infatti, noi abbiamo degli schermi, cioè ci vediamo. Esattamente. Ho deciso di dedicare il mio corpo, la mia mente, tutto il mio credo alla regia. Infatti, la puntata è venuta abbastanza bene. Siamo molto soddisfatti e soddisfatte. Io sono emozionatissimo per questo momento, sono emozionatissimo che è stata citata Zona Rossa, che ha avuto l'onore di ospitare Chiara per un sacco di tempo, tra l'altro abbiamo fatto veramente degli spin-off pazzeschi e abbiamo delle belle idee per questo programma. Scriveteci, contattateci, uscirà una grafica. Ringraziamo in anticipo Macio per l'obbligo che gli diamo di farla, per la sua grafica e per il sempre suo programma gentilissimo. Sempre gentilissimo. Il programma di Macio a breve partirà. Noi, le personalità di Chiara, vi ringraziamo e cogliamo l'occasione per salutarvi e dirvi che ci sentiamo settimana prossima. Ma sì, dai, vediamo quando, in base a quando mi bocceranno, esatto, ad un esame, e esatto, in base a quello scopriamo. Allora, questa volta, scusa, a questo punto facciamo la chiosa. Questa volta, siccome siamo degli scarsi, non abbiamo da darvi l'argomento della prossima settimana, nel senso che, ahimè, devo essere bocciato in un esame, quindi abbiate pietà, purtroppo non ci ho pensato. Ma dal prossimo giro noi cercheremo di dare già l'argomento della prossima puntata, in maniera che voi, stuolo di centinaia di migliaia di autori ancora che non sanno di esserlo, potrete dare il vostro supporto regalandoci delle chicche, delle perle di citazioni di multimedialità, capito? Quindi ognuno di voi si senta assolutamente tirato in causa, e chi non si sente tirato in causa si sentirà tirato in causa da una telefonata che gli farò, cari miei, perché succederà. E quindi niente, direi a questo punto salutiamo. Ricordiamo tutti e tutte che questa puntata, come tutte le puntate di tutti i programmi su Radio ZM, avrà il suo podcast e potrete, bravo, riascoltarvela infinite volte, esatto, a casa o dove volete, in bicicletta, in macchina. Esatto, a questo punto scusami, già che siamo sulle, diciamo, su tutto il al di fuori della trasmissione, perché è importante, visto che noi siamo qua a Milano Sud, nella gioiosa e ridente Milano Sud, ma siamo anche in un centro sociale molto bello, che è ZAM, Zona Autonoma Milano, non so se ne avete sentito parlare. In questo centro sociale succedono delle cose molto belle. Questo venerdì, che tu mi insegni essere il 10, penso. Proprio lui? È proprio lui. Venerdì 10 al parchetto autogestito Fronte ZAM ci sarà una serata meravigliosa di musica di alto livello, che diciamo dedicherà uno spazio abbastanza imponente al pianoforte singolo e a due mani, che vi raccomandiamo, e altresì, e forse ancora di più per legami affettivi, non perché i pianisti non siano molto bravi, sono molto bravi, ma per legami affettivi io ci tengo ad invitarvi tutti quanti al pomeriggio di sabato 11, dove a portare gioia in questo luogo ci saranno due fratelloni meravigliosi e portentosi dal punto di vista diciamo musicale, che sono DJ Agli e DJ Lugi. Veramente un pomeriggio imperdibile. Ad anticipare il loro chilling live set ci sarà le DJ, che è una meraviglia pure lei, nonché una resident anche di Radio ZM, e altrettanto diciamo a tutte e tutte di ascoltare gli altri programmi di Radio ZM, perché ce ne sono diversi, e in particolare io direi, al di là di citare Zona Rossa, che ovviamente abbiamo già citato, potremmo citare, beh, intanto Cesa, citaci, allora, citati. Intanto quando i nostri corrispondenti d'oltreoceano ci sono, c'è anche diretta dal Nuovo Mondo. Bravo, bravo, bravo. C'è quel cialtrone di Melmo e dei suoi amici uruguagi che ci deliziano con delle pillole di saggezza d'oltreoceano. Poi che cosa c'è? Poi c'è stata la prima stagione della saga del Re Muschio, che adesso è comunque disponibile in podcast, quindi per chi vuole sì, se la può andare a recuperare lì. È densissima di inezie, tanto quanto questo programma. E ci sono, cioè, Up, c'è Up, Pusher, c'è Underground Pushers. Tra l'altro ci sarà sabato, giusto appunto, mentre arrivate al pomeriggio a ZAM, a partire dalle 15, voi potete già prendervi bene con Underground Pusher, che è una puntata dedicata a Method Man e Redman, yes, se non erro, quindi si, diciamo, si digga, si scava nell'underground statunitense hip hop, quindi potete ascoltarlo prima e venire poi. E ovviamente, visto che abbiamo citato le DJ prima, all'appello manca Le Ribelli, che adesso in realtà è in pausa estiva, ma che ha deliziato i nostri giovedì sera e tornerà a farlo, quindi anche in quel caso potete ricorrere ai podcast. Lo trovate sulla pagina, perché io non me lo ricordo affatto. Lo trovate sulla pagina, lo trovate sul sito di ZAM. Bravo, trovatelo sul sito di ZAM. L'etichetta radio, sotto l'etichetta radio c'è l'etichetta podcast, e dentro vi trovate un po' tutto. Esattamente, come vedete adesso i miei neuroni sono finiti nel cranio di Cesa, quindi fidatevi di lui, perché io sono ormai agli sgoccioli, come per dire. Cesa si intende sempre Chiara? Si intende sempre, certo. Certo, ovviamente sì. Noi siamo qui come Chiara. Esatto, bravo. Certo. Come Chiara, nel senso che siamo qui come fa Chiara, ma anche in nome di Chiara. In quanto Chiara. Madonna, cioè, mia, Madonna. Mamma mia, raga, sì, sì. Mamma mia. Questa polisemia, cioè, negli anfratti che meno mia. Ci si accorge. Prima hai usato una parola di polisemia, senza dimmelo, accorgertene, che è affetto. Affetto. L'affetto che ho per te e affetto il salame. Per ma ti dirò di più, affettare vuol dire anche modificare l'animo, che è il motivo per cui affetto si dice così in realtà, quindi come dire... Ci siamo, raga. È tutto ci troppo, sono troppo. Decine di puntate solo sulla polisemia. No, non è vero. La volta prossima cambiamo argomento. Cambieremo anche spicchietto. Adesso vediamo dove andiamo a parare. Ma cambieremo tutto. Lo spicchietto marrone. Solo spicchietto marrone. Chissà che cosa succederà la prossima volta. Dalla prossima volta scopriremo anche che cosa succede la volta ancora dopo. Siamo così. Inception. Meraviglioso. Non vedo l'ora di non vedo l'ora di trovare nuovi colori per le esattamente fettine. Esattamente, quindi niente, con il nostro, esatto, con gli spicchiettini glitterati, a un certo punto quando inizieremo a diventare pro faremo gli spicchiettini glitterati. Per il momento noi direi che vi salutiamo, abbiamo già detto a sufficienza. A salutarvi con noi c'è Randy MC, a questo punto direi mettiamo It's Tricky, che è un altro, diciamo, un'altra grande traccia. Voi però non vi abituate bene, perché oggi è andata bene, però chi lo sa, la volta prossima potrebbe succedere di tutto. Vabbè, in questo caso comunque la musica è ancora buona, It's Tricky di Randy MC, un pezzo del 1986, ascoltatevelo, ciaoone. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. Tricky. Tricky. Tricky. I met this little girlie. Her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around.